benissimo. Roberto, Roberto, è entrato. Come ti fa vedere? sottolineato. Cosa hai detto? Ha detto buonasera, ben sentito e ben entrato Giuseppe, mi Giuseppe, no. Ma una nota di arteri sclerosi, l'ho detto. Chi c'è poi altro? Marchetto, c'è Marchetto, c'è a Maria. Ciao Valchetto, comunque Mario, io sono passato dalla zona tua, cacchio, mi stavano partito gli occhi. Perché? Cacchio, me l'antenna della luce, la lucida, c'era il sole che si rifletteva, non riuscivo a camminare con la macchina, ho dovuto mettere i parasole. Esagerato. La giuvista è bella, me l'ha piazzata, però c'è un problema, un errore hai fatto Mario. E quale? L'errore che fanno quasi tutti, i tiranti. Vabbè, ancora c'è il tiranti. Tu cosa ti sei rotto dell'altra antenna, te lo ricordi? Cosa mi sei rotto? Il piantone ti sei rotto, è vero? Il piantone è resina. E lo sai perché si è rotto il piantone di resina? Tu lo sai, non ci hai mai pensato? No. Perché hai messo i tiranti troppo in basso, i tiranti devono essere il più vicino possibile al piantone, così anziché scaricare sul piantone, scarica sull'antenna l'oscillazione. Guarda che è tutto calcolato. Allora, i 6 metri, se tu l'hai guardata bene l'antenna mia, c'è anche il palo sotto. Perché io ho detto, la porta tra il tubo e l'antenna si dimezza. Allora io che cosa faccio? Siccome lì ci sono le gambe, vicino il più possibile al piantone, se tu gli dai un metro di altezza, infatti dicono non andare oltre i 90 cm l'ultimo tirante, la stella dove metti gli ultimi tiranti su, perché sennò il contraccolpo del palo te lo scarica sul piantone, oscillando antenna, diciamo le tira l'antenna, con l'oscillazione del palo, che sono due oscillazioni diverse perché il palo è molto più rigido, ti spacca il piantone, e a te ti sei rotto per quel motivo, perché c'hai i tiranti, gli ultimi tiranti, ce li avevi troppo distanti dal piantone, li devi mettere il più vicino possibile, così lo sforzo te lo scarica, cioè distribuito in modo migliore. La comprendi o? Gappa gappa, ho capito. E te lo sto dicendo non perché lo sappia io, perché c'è anche scritto nelle istruzioni, non della Amato, ma di altre antenne, con di quel tipo di antenne, dice metterlo, è consigliato metterlo più vicino, l'ultimo tirante più vicino possibile. Io te lo dico, che a me ne farà da un'antenna con 13 metri di palo, ha mullato un tirante e si è troncato tutto, si è spezzato tutto, e non l'antenna di baracchino, altri tipi di antenne. E se tu se consideri che è un pezzo di un tubo di vetro resina, sbatte luce, sbatte romani, e contraccolpi, siccome la vetro resina basta che tu è vetrificata, c'è una vetrificazione per proteggerla dagli agenti atmosferici, però se questa vetrificazione va a finire a scheggiarsi, muove oggi e muove domani, diventa, si inumidisce, si forma lo smoothie come si formano le barche, alla fine entra l'umidità dentro, si inumidisce e si spacca tutto, basta un primo colpo e a te ti sei rotta così proprio, se non sbaglio, o confermi. Beh, tutti muti, avanti Natalino. Ehi, io sono qui, mi sto scaricando la porta, un attimo, io ho finito subito di guardare tutte le storie, già rientro subito. Ehi, avanti, fa questo. K00, e domani siamo tornati là, qua è. Sì, domani è tutto il giorno di acqua, anche da stasera, la stanotte dalle 11 inizia a arrivare un po' di acqua. Poi domani è tutta la giornata erba, venerdì di mattina appena di acqua, poi già è buono. Sabato e domenica non piove, dai. Hai sentito il giornale, Robert? Che cosa è successo? In Brasile, quel disastro climatico. No, no, non ho sentito, cosa è successo? 10 morti, e ne è morta anche quella ragazza. Quale ragazza? Quella modulava. Ho capito, quella ragazza che modulava. Ehi! E la ragazza che modulava? Quella, come si chiama? Daniela, Don Manuel, Nera, boh. In Brasile. Gappa. Chi è tu, la conosci? Anche in Brasile, la vita, amici brasiliani. Ma c'è, hanno fatto nominative. Ma chi l'ha fatto queste, la televisione? Gappa. Cos'è la CB perché ora gli ha fatto? CB. E allora è morta una ragazza CB. Sto scherzando. Infatti in americano è accaduto anche da chi? A chi se CB vuole durare di più, cioè vuole di più la morte. Quando sei morto sei morto. Sto scherzando, no, comunque a parte gli scherzi. Un disastro climatico e ha fatto un casino nero. Dimmi un po', come sta uscendo le radio, Roberto? Bene, ma c'hai alternata. Vabbè, alternata, sono con le più 5 là. C'è un rumore sotto, ma... Deve essere la batteria quella. La batteria? Non c'è la batteria. Sì, ma la batteria non te ne dà, il microfono di alternata non te ne dà, che ha corrente continua e non ne dà di ruzia, non c'è nel circuito alimentatore. E il resto, magari, l'alimentatore dell'apparato, il maracchino ti fa ruzia, ma il microfono e la batteria del microfono non te ne potrà mai dare ruzia. No. Allora c'è la regolatore della tonalità, i turi, i cusi. Guarda, se schiacci importante, schiaccia un attimino. Questo è l'alimentatore, 400 Hz, è l'alimentatore, perché tutte le volte che ci sono problemi ti appare questo rumore qua. Questo è il rumore di alternata, 400 Hz. E per cosa devo fare? Prova a allontanarti l'alimentatore, i cavi allontanare il più possibile dal microfono. Il microfono vicino a dove passano i cavi di alimentazione ce l'hai, perché quello ti fa, ti amplifica tutto, tutti i disturbi te li amplifichi. No, sono distanti. Il capo l'antenna che sia lontano dalle connessioni del microfono, mettere a massa le carcasse degli apparati, alimentatore e coso, metterli tutti a massa, non lo fai sicuramente, è quello. No, non l'ho fatto, e come devo fare, Roberto? Prendi un punto della carcassa dell'apparato, ce l'avrà una vite sul metallo, e lo colleghi all'alimentatore, e poi dall'alimentatore lo porti in un punto sicuro, tipo un termosifone, però che ci sia una cosa pulita che faccia ben contatto, se non fa di contatto non va in un tubo d'acqua, qualunque punto di massa terra del palazzo. Come lo devo collegare all'alimentatore? Tu prendi le due tre carcasse, allora il baracchino ha delle viti per coprire il coperchio, no? Possibile. Esatto, beh. Ci avrà qualche vite dietro che magari si nota di meno. Esatto. Prendi un cappuccetto, diciamo, un cavo di massa giallo e nero, e li metti uno di quelli, come si chiama, connettori col buco, cioè prendere, come li chiami tu, i fatto col buco. I cappuccetti, diciamo. Lo prendi da lì e lo colleghi alla carcassa dell'alimentatore. E poi dalla carcassa dell'alimentatore vai a un punto di massa. Io tutti gli apparati ce li ho tutti collegati, ho una piatina in rame grossa con tutti gli apparati da qualunque baracchino a qualunque ricevitore, qualunque cosa, passano tutti per lì e poi da lì va a finire al punto di massa più vicino. In pratica dal baracchino all'alimentatore sono due fili e poi diventa unico attaccato al termosifone, così è. Due fili, prendi un filo, lo colleghi dal baracchino all'alimentatore, in modo che metti a massa i due apparati, se c'è qualche problema di reunire, cosa del genere. Dopodiché, questo filo lo prosegui e lo vai a portare vicino al termosifone, se c'è il tubo di rame lo pulisci bene bene con la carta vetrata, lo leghi di lì, ti metti una di quelle fascette in acciaio, in modo che te lo tenga stretto forte, quelle non in plastica, in acciaio, e lo stringi forte. un po' se c'è anche il vaselina, grazie al vaselina, ma non fallo si là e lo butti sopra, se no va bene, oppure un qualunque tubo d'acqua, però se il gringato lo devi pulire, se no non fa contatto. No, io sono di questi emulsifoni con tubi in ferro, ma si può fare? Ma no, che cos'è il termosifone? Se è in alluminio, non lo so se fai il contatto, attaccalo all'uscita della quacca del termosifone, devi dal tubo. Tu no, il termosifone in ghisa, va bene. Sì, ma non attaccare il termosifone, attacchi direttamente al coso, al ferro che c'è attaccato al coso, che regge il termosifone, qualunque punto di massa dell'appartamento, ci sarà un punto. Se lo attacchi al tubo dell'acqua calda va benissimo lo stesso, l'importante è che lo pulisci bene. Un tubo, un filetto sottile sottile, sono pochissimi milliampere, anche un filo da un millimetro quadro, sottile sottile, di quelli giallo e neri te ne prendi qualche metro e ti metti tutti gli apparati, però puliti bene le masse, se verniciata la carcassa non fa conduzione, deve essere pulito dietro, dove c'è un muloncino, qualcosa dietro. Molti apparati hanno già proprio la vite a coso, come si chiama? Affanatri, quei darini con le orecchie, come li chiama? I galletti. Vedete, questi apparati che ho io non ce l'avevano, qualcuno li avevo messo io. Ti metti quelle vite a galletto, così quando lo devi spostare e te lo spusti. E questa tappata va via? Sì, sicuramente può essere anche un problema di quel discorso di massa a terra e può andarti via, ma poi basta fare la prova, prendi un pezzo di filo elettrico, ci metti una mano sopra, lo attacchi alla carcassa e poi un altro lo attacchi al coso, al termosifone e vedi se ti ronda, perché molte volte non sono schermati bene questi apparati qua, basta ci sia un po' di coso e ti rientra. Poi se non ti basta quello c'è un altro sistema, però è un po' più complicato, con delle induttanze, vabbè, è un condensatore e quello ti filtra completamente tutto, ti elimina tutto, te lo metti sull'alimentazione, ci sono quello me l'aveva detto quello di Itili, VDK200 si chiamano, sono delle bobinette che le vendono a GBC, non ce le ha, ce le ha fusato, vabbè, ma quelli sono casi più esasperati, con quello proprio elimini tutto. Guarda adesso Robert, che ho spostato l'alimentatore che ce l'avevo sotto, guarda un po' se senti affermata. Sì che si sente. Ancora? Ehi, a te sta dicendo non è questione solo di coso, ma forse uno switching o di quelli a coso, a trasformatore? Un tipo switch. Non è quelli con trasformatore, quelli piccolini sono, no? No, è grande questo. Ma c'è un trasformatore grande dentro? Gatta. Allora uno switch, i già sono buoni, vabbè, andiamo a vedere qua, l'alimentazione che gli stai dando, come fissa o regolabile? No, è fissa. Perché molte volte uno non se ne accorge, magari gli dà più tensione e inizia a saturare l'amplificatore, cioè il finale del coso, dell'apparato, e satura, per cui ti dà il ronzio, ma dove è saturato, ma se la tensione è giusta non ci sono problemi. Però fai come ti ho detto io, inizia a metterti questi fili di massa, attaccati le masse delle carcasse, degli apparati, e poi vedi che sicuramente ti si attenua. Ci puoi mettere anche uno schermo, per dire, dall'alimentatore qualcosa di lamiera metallica, in modo che non ti faccia radiofrequenza, però devi stare attento perché se lo chiudi troppo non ti ventila, diciamo, non fa ventilazione e mai riscalda. Non lo so, grosso l'alimentatore. Papà, sarà 20 per 20 per 25 per 20. Oh, di ampere, quanti ampere c'ha? Strumenti c'ha? C'ha lo strumento. E quanti ampere c'è segnato? Aspetta. Come stiamo monopolizzando? Chi c'è ancora? Mario, ancora ci sei? Sono sempre qua, io che sto ascoltando, non c'è problema. Scusami Mario, dai, sto dando delle indicazioni alla falchetta. E Natalina ancora ci sei? Sì. Quanto tu sei più basso Natalina, è normale. Cos'è questo, il presidente? Oh, grazie. Ti sento più basso del solito come segnale, non di radio. Sì, va bene, riprendo il filtro per la nuova studio. Ehi, hai preso anche? Vedo, cazzo, non riesco a leggere. Cioè, ma erano quelli buoni di ripicciti, a me mi vedete un fastidio, così c'ho mio fratello, cazzo. Non lo fai, buoni di ripicciti, già l'hai inventati. Comunque c'ha uno strumentino, cioè. Ma ci sono i volt o le ampe, ma c'è scritto V o A in grande? Perché guarda. Mario, questo falchetto cosa mi combina? Ah, ce lo fare, che se lo fa peggio! Comunque Mario, luci da luce a bella, ma l'hai alzata ancora un pochettino l'antenna? No, è proprio sempre lo stesso. Ampere c'è scritto Robert. E quindi qual è il fondo scala degli Ampere? Sì, no, me l'hai detto me. Che numero c'è scritto? 10, 5, 8, 15? 7. A te cosa si convince? Stai aprendo l'involucro, non ci sarà evidente, in evidenza. 10. 10 ampere massimi sarà 7 ampere continui, dai, non è grosso grosso, ma per l'uso che ne fai tu già va più che bene, dai. Non è a ventola quella. Sei abbinata io. Ma non è che c'è la ventola accesa, la chissà che fa del rumore, no? Aspetta che lo aspetto, vedete. Aspetta, adesso lo aspetta, eh. Aspetta, guarda adesso. No, niente, non cambia nulla, ma c'è niente di niente. Prova a girare invece il microfono dalla parte opposta dell'alimentatore, per dire se l'alimentatore è a destra, giralo tutto a sinistra. Ah, adesso l'ho staccato sia dall'apparato che dall'alimentatore. Vedi un po' se siete alternati. Sì, sì, anche abbastanza presente. Vabbè, dobbiamo vedere, dobbiamo fare delle prove, i disturbi, guarda, io ho un libro, rivelazione dei disturbi, un libro, sarà più di 200 pagine, fatelo conto, cosa c'è di scienza per curare i disturbi di tutti i generi, perché magari può essere anche l'alimentatore che non è schermato bene, tantissime cose possono essere, il cavo del microfono che è di scarsa qualità, che non ha la schermatura buona, perché può essere anche il microfono che ti amplifichi i disturbi, per dire l'apparato, lo taglio di microfonico dell'apparato non è schermato bene, un cavo che è appena scoperto, tante cose, bisogna fare delle prove per vederle, fa che. Però te lo fa solo con quel microfono, con l'altro no, hai detto. Cappa. Vabbè, adesso vedo un po' se trovo il filo e faccio queste masse, dai. Inizia da quello. È matematico, bisogna farle. La prima cosa, fare un impianto, la massa a terra, tutti gli apparati, in modo che qualunque scarica atmosferica almeno cerchi un po' di... Perché anche le scariche di fumi, che se il fumo non ti arriva direttamente, basta una scarichetta vicino e ti può creare dei problemi. Mentre se c'è tutto a massa, non ci sono problemi. Diciamo va molto meglio. E poi bisogna fare delle prove, per capire dove viene il disturbo. A me mi invadiva i cd in campo, ce l'avevo nella macchina. Ma sai cos'era? Alla fine ho dovuto fare un passaggio diverso dei fili, anziché a destra l'ho portato a sinistra e ho eliminato il disturbo. Per dire, una cosa semplicissima, avevo provato di tutto, niente, non mi cavavo bene. Alla fine l'ultimo tentativo è pensi che mettiamo la posizione del capo, anziché passando per dire, dal passeggero lo passo dal guidatore e mi ha eliminato il disturbo. Deve essere che c'era qualche cosa, qualche filo che trasmetteva disturbo e questo mi entrava dentro. Però molte volte sono anche i cavi microfonici che sono di scadente qualità. Può essere anche una cagatina di cavo microfonico. Vabbè, dai, riprendete che io provo a fare questa schermatura, dai. Attenzione, non fulminatemi, non la giocare nei pagani sciumi. Non sapevo fulminare. Non fa come tardi tu, non mi... Carina Giuseppe, tu prendi il filo della corrente, lo infili dentro la spina, dall'apparato fa uscire un filo di massa e te lo colleghi direttamente alla spina. Ah, vai, non so, va. Ah, non so, no, ai giorni d'oggi. Ok, vai Mario. Va, intanto, va bene. Ci sono rimane già dentro, ok, voglio dire la pucce. Sei bastardo. Bastardo. Tu sei bastardo dentro, Mario. Tu sei la bomboletta, uno dei più forti in stazione, te l'ho già detto altre volte, quando tu uscivi male io te l'ho detto di segnale e non ci hai creduto, che ha creduto agli altri, la base l'hai compresa, stai andando benissimo a parte mia. Cappa di positivo, va bene, là. Allora adesso vedo a poco, ma tu ci hai messo un'antenna che era rovinata, una mantova, non so se era uno o cinque, che ci avevi settimana di vita, ti racconto la storia brevemente, quando la stavo montando c'era qui e l'è staccato, e abbiamo fatto con Claudio, abbiamo fatto tutto il discorso con Claudio, e sai fatto poi per non aspettare e mettere a fare niente, ne abbiamo ordinato una, e abbiamo ordinato la mantova 1, quella mantova 5 che era già montata, lo strillo della mantova 5 che era già piazzato, l'ho montato nella mantova 1, tanto gli strilli sono identici, cambia solo il piantone, che uno ce ne ha 4, l'altro 5 radiali, il piantone di quella che è arrivata nuova l'ho preso, l'ho messo in scatola dentro la busta, ho fatto cambiare la bombina, mi sono fatto spiegare cambiare, mi sono fatto dare il filo, l'ho aperto, ne ho sciolto tutta quella bobina, l'hai visto l'avvolgimento che c'è, quello del il filo di rame con la, come si chiama, con l'isolamento, l'ho rifatto nuovo e non so quanti millimetri quadri era, adesso non mi ricordo, da 3 mi sembra che era, sono andato da uno che fa avvolgimenti elettrici e me l'ho fatto dare, calibrato, me l'ha misurato, abbiamo contato il numero delle sfide, perché non so quante ce ne siano di sfide, perché devi fare tutto quel lavoro lì, ripassato dentro, cambiato il PL, messo uno di quei PL Amphenol, quelli migliori di qualità, e messo con delle, come si chiama, delle viti, anziché mettere dei rivetti, viti in acciaio inossidabile, con dado, con la tenera più forte di quella nuova. Ce l'avevo conservata sino a un paio d'anni fa, poi me l'ha chiesta una persona e gliel'ho regalata, gliel'ho data. E vabbè, non c'è problema, se no te l'avrei data ben volentieri, Mario, già lo sai, non ci sono problemi. No, mi servivano gli stili, se non li avevo ancora mi servivano gli stili, perché io ho una carica l'ho rimediata di Matova 5, infatti sto cercando di smontare lì, però c'è quello, non quello dalla parte bassa, quello dalla parte bassa l'ho smontato tutto, però quello dalla parte alta, perché da quello dalla parte bassa mi ha portato anche il pezzo della resina che c'era dentro. Infatti le mie, mi auguro che non le va mai smontare con l'antenna, però le ho messo tutto all'interno, l'ho tutto pulito bene, asciugato bene, poi le ho messo il coso, il grasso di vaselina, tutto all'interno, poi sigillata bene in modo che non prenda ossidazione. Scusa un attimo. Ti stavo dicendo, per provare, non sai cosa puoi fare per toglierla, Mario, però è un lavoro abbastanza delicato, siccome l'alluminio di latta, tu l'hai già attaccato, quindi lo stilo, mi ha detto. Mario. Ti ho detto, la parte di sotto l'ho staccata tutta, cioè sono i primi due pezzi, quelli grossi, li ho staccati uno dall'altro, l'ho scaldato appena appena, l'ho battuto un po' e piano piano sono riuscito a smollarlo. E la parte finale, perché siccome nella parte finale, quando si è spezzata del tutto, farli penetrare il CRC proprio la lampadura per un paio di giorni, lasciarlo così, poi puoi provare un pochettino a scaldare e poi leggeri leggeri con colpettini di martello, possibilmente in gomma, se no non lo schiacci, lo batti tutto in giro piano piano, in modo che cerchi di rompere quell'ossido che c'è di là dentro, e poi piano piano ti fai tipo col pappagallo, però devi mettere una morsa in modo che non si schiacci, piano piano, e girare un po' da una parte all'altra, così solo riesci a toglierlo. Gappa gappa, ci sto provando, no, perché la verità, questa turbo non mi soddisfa. Marie, cacchio, quella è molto forte la transmissione, in ricezione, Mari, perdi qualcosina, tutto non si può avere. Quell'altra invece la cosa, la 5 e la 1 sono più equilibrate, perché vanno bene, Mari, vanno un po' meno in trasmissione, però in ricezione sono un po' più performanti, perché hanno radiali un po' più lunghi, Mari, riescono a ricevere un po' meglio. Ma stiamo parlando di cose molto limitate, Mario, non è che non pensa che una è il doppio dell'altra, un pochettino di più e l'altra un po' di meno, ma io sinceramente cambiarla, ormai che l'hai già presa, potete dire, a meno che non trovi uno che te ne dia una nuova come quella lì, ci facciamo a scambio, però non lo so, lo vedi un po' tu. No, adesso sto vedendo di recuperarla, casomai la pulisco bene, e alla prima occasione che salgo sul tetto me la scendo, quella lì la conservo e niente, ci riporterò la matematica. perché mi sono arrivate le pietre, semmai ci sentiamo dopo, non so se c'è qualche d'un altro, se no a dopo, dai, ciao ciao. Ciao Robè, buona carica, buon tutto, ce la risentiamo alle prossime. Roberto, dimmi qualche. Guarda un po' un attimino. Aspetta se ti è diminuito, scusa. Vai. Come mi hai aumentato? Prova un attimino. Io sento un avvento adesso, non è l'ultimo, sento un avvento. No, vento l'aspetta. Si sente quel buono, questo non è il rumore di alternata, il rumore di qualcos'altro è questo. Ah, forse è l'alimentatore. No, ma mi sembra che abbia aumentato il rumore, non zio. Almeno la parte mia ha aumentato il livello. Tu mi hai detto, dall'apparato all'alimentatore, l'ho fatto. E lui, dall'alimentatore devi mettere a massa, se no cosa fai? Ti amplifichi ancora più di disturbo, gli stai facendo l'antenna. Poi attendi 2 secondi. Vabbè, fai la prova, ci sentiamo dopo, dai, dammi qualche minutino, se no mi si raffredda la pizza, ma già siamo a nome mulieri. Vabbè. Sargento. Ma che passo stiamo uscendo? Ma che io so. Perché Roberto dice che esco più basso, no? No, per me è sempre uguale. E da di tu che lui è più basso. No, sei uguale, sei Natale. Ecco. Ma se sente rumore di alternata? Sento. Sono lontano con l'apparecchio, là. Ah, non me lo puoi fare, questo controllo puoi farlo? Vale, sono lontano dall'apparecchio, c'è un troppo filo tirato che sono a conflitto, capito? Apparino! Poi dimmi che apri due. Scusa, per poco fa, perché il garage non riceve bene il cellulare, capito? Sto saltando, sapo, non riceve bene. E niente, se quello vuole, poi ho provato a chiamare, aspetta, ma non mi risponde. Sì, non ti risponderà, prima o poi. A me mi ha chiamato lui e il numero è quello. E ok, io lo sto chiamando, c'è la segreteria. Se mi vuole, io le... Stefano, in caso mai ritroviamo a oltranza a fare chiamata, per il momento è pronto il caso. ricca e farò cenare. Ci sentiamo fra un po' magari, e buona cena a tutti. E almeno che abbiamo bisogno di qualche autista dove c'è lui. Cava cava. Va bene, dai, buona carica, ci sentiamo. Avanti, Giulio Falche. Già, stavo mettendo la marcia all'apparato, dall'apparato al metatore, dal metatore alla termosifone. Stai mettendo? Perché dice che sono alternate con questo microfono. Schiaccia a bianco senza parlare. No, aspetta che attacco il filo prima. Vabbè, faccio una prova adesso, guarda un po'. Ma vai che non è di alternata, vai. Ma ce n'è? No, prova, lungo, lasciala, lasciala. Si sente? Sembrerebbe una ventolina, ma è una cosa minima, minima. Pensa che non è metatore, no? Non lo so se c'è avvento il cuore. Io ce l'ho, ma aspetta. Prova a mettere questa massa, invece sparisce il cilindro, ma per me non è che sia una cosa grossa, grossa. Aspetta un attimino, vedo solo collegare la termosifone e poi vediamola. 2 secondi da me, già. Sì, vai, vai, vai. Avanti. Chi vuole entrare? Avanti, avanti. Guarda un po'. Ma lo sai che adesso la sento di più. Mi sa che tutto, dai. Ma lasciala come ti la senti via quasi così. Avanti, chi è? Ciao, Pili. Ciao, ciao, è bene. Yeah. se funge, anche questo quel che ho io è quello che rende il coso, come si chiama? Fusaro. 90 euro da 10 ampere me l'ha fatto pagare. 90 euro grammi. Comunque questo alimentatore Pierpaolo si divara nulla, è una potenza, 10 ampere che gli dà proprio di lusso, è una potenza, va benissimo, non c'è aveva luci, le ho messe io e alcuni accorgimenti, perché aveva il coperchio bianco, io l'ho privilegiato di nero, perché la sensazione nera ci stava male in bianco. Buonasera. Buonasera anche a lei. Buonasera anche a lei. E anche se ne rivarà. Ma dico, ci sono quelli che magari mettono 10 ampere, ma poi ne rivarà. Non reggono per 10 ampere, li capisci? Questo qui è proprio perfetto. Chi è? Chi è? Avanti, avanti. Io. Lucrezia, fai da brava. E mi ancora. Buonasera. Ciao Luca. Hai sentito? Ciao ragazzi, avanti Lucri. Ciao Luca, hai sentito? Ciao. Ciao Antonio, ciao Pierpaolo, ciao Gianni, non so poi chi sia altro. Ho fatto una sveglia a Gianni per domani mattina, ma guarda domani giovedì, che bello. E perché venerdì non lavoro? Sì. Mi pare che domani appunto va. Integrazione, venerdì acqua, integrazione. E che tanto è lunedì, E io oggi ho deciso di scendere in moto a lavorare, che ritornando si è messa a piove. Aspetta, aspetta, qualcosa mi si è detto. Parla! E quale è la piovuto? Quando l'ha portato Torre, sì, anche qua ha piovuto, perché c'è la macchina con le goccioline. Oh, e non ci metteva? No, ci ha piovuto, sì. Non dico che ha fatto questa grande acqua, più vicinato, ma sempre più. Io non me ne sono neanche accorto, guarda, è puro. È largo e lungo, ma non l'acqua non l'ho visto. E da Porto Torre vicino a un bel pezzo della Butti-Butti mi ha accompagnato, che si vedeva dal casco che scendeva davanti al casco. Lì stava piovendo anche un po', poi ha smesso un po' verso il sasso, comunque quando sono arrivato a casa ero parcheggiato, la moto, la macchina era bagnata. No, Giorgia, io non ho incontrato niente, né poco e né molto. Ma la nostra tre nuvole ti fa tutti, se vuoi che ti richi a verba, ma comunque ha piovuto, quello sono sicuro. E vedi, se ho toccato te la faccio vedere ancora la macchina come. Ti credo, ma sono andato da questa parte, da quella parte là no, E detti che non volete fatti, se fosse un porto a torre, se fosse qua era tutto buio, dalle 7 di sera era già tutto scuro, capito? E si vedeva che stava già preparandosi a fare acqua. E allora Gianni, prima di partire, ci ho messo tutta la tuta impermeabile e vai che si parte. Vai che c'è. C'è anche amore brutto. Così è. E se lo trovate la porta d'ora io. Ma dov'è che stai lavorando, Franco? Via Lungomare. Ah, via Lungomare. E là fiacca nero. Ora se sì. Ma c'è un negozio alimentare al fianco della Sisa? Via. Ah, capito, quel cancello grande. Scappa. Oggi compreso chi vi. E al fianco praticamente dove sono, ma voi all'interno, sì? Scappa. e quindi non si possono vedere. Cavagava, comunque, dico, facendo che sono la sisa, io ci i baffi pago anche 5-6 voti al giorno. Cavagava, infatti avevo preso le spianattine, le salame, la birra lì. Cavagava. E te la date? Sicuramente ce l'ha anche la sua. Quella con gli occhi chiari, ma sotto. Cappa. Cappa su. Ehi, Cavagava. Quella è di Sassari. Ah, Sassarese. Ehi, Nadia. Cavagava. Comunque, magari niente becco. Qualche giorno ti becco perché... Io vengo di mattina presto, tardi, insomma tutte le ore sono. Niente di strano che ci vediamo. Ragazzi, ho capito dove si va. C'è un cancello grande, dove c'è carico e scarico merci, appena appena abbiamo detto c'è quel cancello. Bravo, bravo. Non l'ho immaginato, perché qui li chiama sempre Ferrari a fare la fuga, sempre Russia. Brava, brava. Dammi la propagazione, non intendete? Ah, Bravo, perché? Ah, posso torna. Insomma, giù male. Ciao! Ma, via. Non mi dico Tarzan, e me, sapendo stai. Positivo, la macchina partita, qua gira tutta la ruota, ai mille frutti, ai piccoli e ai grossi. Buonasera, buonasera Domenico, ben sentito. Ciao Domenico. Sì, la buonasera, doppio Rufo, al Ghetto, a Luca e a tutti. E allora, avanti doppio Rufo. Ehi, ehi, anche ci tocca. Ma io ci sono sceso a fronte di moto, dove? C'è una bella giornata, invece ha detto che si è messa a piovere. E poi lo vedo che qua non ha... Invece io ho trovato la macchina bagnata. Poi sulla Budi ha aumentato un pochino, poi non ne ho trovato più nemmeno io. Sono arrivato a Sinassa, sarei tranquillo. E sono arrivato sino a casa, e ho salto a parcheggiare la moto e c'era la macchina tutta bagnata. Beh dai, era per farti la doccia, non c'era il sapone, ce l'aveva presso. Facciamo la volta un po', guarda. Il sapone? E per farti la doccia, quando non te la faccio via a casa, non sprecavi acqua. No, no, io ho preso, sai cosa porto? La tuta di pioggia. Non sprechi acqua, niente, di saponi, lungo la strada facendo, ti fa un bel bidet. Così, cosa ascolti fuori strada? Iaia, oh iaia, questo domenico, ora. E te, titalino. Titalino. Domenico. Allora, direzione Città delle Bombarde? Positivo, Città delle Bombarde, direzione come sempre lì. Andiamo, andiamo e torniamo. Gappa de Roche, già va bene, già va bene. Ah, vero? Vabbè, Domenico, mi ascolti o non mi ascolti? io, che stavo a luci qua la radio. Dottor Spagnolo, non mi dico, mi ascolti, va. No, adesso sì, forse prima avete parlato a due, l'altro non fa, ma capito? Ah, vai, cari, trova tu che è lontananza già, prova, vai, fatti sentire l'impenna, vai, allo. C'è una cosa, no, che sono quei cazzi, sono, oiaia, quel dipendente comunale era poco fa, cazzo, non ero io, quel coccomane di Luca. Cazzo, dipendente comunale, per carità. Guarda, la giù mi dà un dito alla bottoniera, mo. E come mai? Perché l'ho fatto girare, schiureggia tutta la voce alla bottoniera, faccio il carne, si è lì come mi si è agganciato, boh. Cazzo di so. E meno male me l'ha fatto solo la pellicina. Ma mai non mi ha agganciato il dito, anche no, ciao, Un minuto la battuta, oggi. Ehi, vabbè, lui, ma ce ne sono sempre nove, dai. È un gioco. Pambucani non c'è, ma c'è la visione a 6-9. Cava, cava. E avresti fatto il ballo? No, assolutamente no, perché era senza guanti. E la squadra non copre. Vedi. Se avessi avuto i guanti, pare non ti saresti fatto manco male. Certo, ma l'ho un dito. Vedete che dico che abbiamo un dito. Dici. E io dico proprio di sì. Ma non avvocato, lo vedi? Non avvocato, di dire a Baudito. Guarda che un dito non è a dirlo così, ma serve. Voglio vedere fumando la sigaretta senza dito. Non sai cosa faccia la bruciava, ma quello che era falegname, no? A parte che lavorava in una fabbrica di bare, quando gli dicevi che lavoro fa, lui diceva barista. E ti fa si aggrippare, che si vagognava a dire faccia le bare. E poi un giorno si è tagliato con la sega circolare il dito. E gli rimaneva solo il bocco, l'uomo del dito. E faceva finta di entrarselo nel naso, la gente passava e se lo guardava male, invece il dito non ne aveva. No, amico, già, lo so che ti paga, non è alcune ti paga tutto, però ora senza guasti, vabbè, dobbiamo fare la, diciamo, la pregirata, mica ti mettere i guanti, sono fastidiosi, non è che passare, capito, vabbè, comunque, cosa vuol dire che va un dito, sei come di euro, cosa vuol dire come di euro, non sono nulla. Luca, poi che ce l'hai? Un dito è importante, si deve fumare, per esempio. Sempre leccare nelle camere di mezzo, cesce. Scusa, è più importante se va con la ragazza serve, ma fumare non è interessante, no? Mi barrio, mi lascio, io, si devo fare in casa di Milano. Questo qualcuno è di Gianni, bro. Fumare non fare altro, hai detto. Faccio chiudere da un pezzo. Cosa la tre che ti hanno coperto? Ha detto se sa cosa c'è in mano, cosa c'è in mano a Gianni, gliele do un pezzo. Te ne dico. Peggio per te. Ti fa una cosa, manico di baracca. Piccata, ci mi sento una cosa del genere. Ah, siamo il ombrello. Domenico! Domenico! Eia, ti ascolto! Dove sei? Dove? Ah, la Brescia, la senso, lo sono. Adesso non ti devi mettere problemi, tanto guarda, di più di piedi non si può pisciare. Ma sta lì. Perplesso Gianni, lo sento perplesso. Ha deciso chissà cosa. Ma non c'è il veletto, anche tu mi darò via con la signora. Si chiama la cipolla. Divino tu. KK, certamente che è un casino se sta zitto. L'importante è che ci sia il bollicione. Un pacchettino piccolo, lo spegni solo in tasca. si assorbe tutta la ricottina. Cosa la cosa ha compreso? È in truscia, ritrovatina. Cade tu dici da Nanto? No, se tu non capisci che è Nanto, va a carità. Così no. A fumare a quello di quelli no. Qualcuna sì, ma... Diciamo, ma sai, io fumo un po' troppo, una settimana. A volte la mattina manco mi dimentico di fumare. Ciao, la cosa che ce l'ho regalato, no? Guarda, tutta bucata. Dalla sigaretta. Ma se ne fuma è nato, se ne fuma. Una volta sono andato a prendere un'ambulanza, ci vai un po' la bocca a casa, tutte le lenzuola bruciate dalla sigaretta, perché dice che ci addormentava, questo era esaurito, ci addormentava con la sigaretta in mano e buccava tutte le lenzuola intorno. Gianni, ma lo sai quelli quando ti chiedono dove c'è il motore che ricicla l'acqua, li ho pescati e ce l'ho messo in alto all'appalto, e poi di quelli ce ne sono un bel, non ce ne sono ma io adesso qui li avrei fatti crescere, non darli subito, se no poi magari di morire là se non hai più. Ehi, io faccio crescere, sì, li ho messi nella sala parte, li ho tolti da lì, dove c'era l'attore erano e io me lo immaginavo. Ehi, ma questi sono piccoli piccoli però, 3 o 4 ce n'è, e ho preso e li ho messi nella sala parte. Cavaga, Va bene. E gli altri sono grandi cieli. E gli altri sono grandi cieli, ce n'è anche uno di quelli rossi. È l'apponato te. Cara gara, tu gli hai già prelevato una di quelle femmine e l'ho messa nell'altra sala a parte. Adesso me devo prelevare un'altra. E se devi dare tutti a Vanucchi, a Capri 2, crescono nel suo acquario, così vedono... la soddisfazione della ricrescita. Sì, infatti. Però vuole regolare la temperatura alla stessa gradazione. Sì, infatti. Prima vuole fatto, io glielo ho detto, vuole 10 giorni andando all'acquario, e tu ci metti i pesci. Se non ti muori noi tutti, vuoi che ne prenda a me? A te già lo so, ma cosa ti sono busti? Perché abbiamo usato quella a fare la... Vabbè, adesso, ma ci vuole, non li devi mettere subito i pesci nell'acquario. Sai io quanto ci ho messo a mettere i pesci? Un giorno. Vabbè, però dice che li morivano tutti a lì, me l'ha detto la moglie di Capri 2, ma sicuramente a chi non l'ha saputo fare l'intervio. Infatti io te lo fai allestire la cosa da Gianni, ho detto. Una decina di giorni andando e dopo ti pongono le pesce, ti faccio vedere che sopravvivo. Vabbè, io devo essere a comprare 2 sacchi di coso, di ghiaia, di bali, di fondo, ho detto che ne compravo un sacco solo, che prima c'era un sacco, ho detto ma di chi mi ha comprato? No, ma è piccolo, è la metà del mio. Quanto sarà? 100? No, è la metà del mio, l'ha detto la moglie. Oh, l'ha visto? L'ha visto? Eia! Vaga. Riprendi Luca. Anzi Antonio, c'è Antonio, riprendi. Scappa. Riprendi tu, dai, che ascolta il discorso. Io no, non lo so degli acquari, delle cose, non ho mai praticato. E io Antonio, e perché se vedi Natali, quelli che ho io, quelli russi, che se poi si offende i belli? Io non lo so, che io ho visto. Ma prima l'ho visto, si è innamorata di lui io. Ma me l'ha fatto già a me questo qui così, ho detto, perché a me chi quello, tutte le cose che so me le ha dette Gianni, io non le sapevo, capito? Cappa. E ci vogliono un po' di soldi a disposizione, se lo dobbiamo fare come si deve, lo sai Natali cosa ci vuole, no? Però almeno c'è la sensazione di vederlo bello. E infatti tu mi dici cosa tutto ci vuole, il mio condizionatore mi ha dato una boccetta io, mi ha dato perché ne avevo due, così almeno prima gli controlliamo l'acqua e tutto, gli ho detto comprati il test per il pH, adesso bisogna vedere, quando andiamo glielo guardiamo cosa ci vuole e via, dice che piante neanche lei. Ma non belle come quelle. Rifaccio a maniera mia, sono fatto così, mi piacciono le piante che si muovono, che si dettano, mi piace la roccia che dico io, se no è inutile che lo faccia per cui non piacermi, capito? Mi deve anche piacere quando lo faccio. Tu contiene il tuo? Mio è 90 litri penso, 90. Un anno, Quello di Natalino è 100, mi pare, più grave del mio. Capa, di un anno. Quanto viene a costare questo acquario? Tanto io l'acquario fa 8 e senza allestimento, senza nulla, con l'ubile. Allora l'avevo pagato 1.200.000 lire, però ti parlo di 21 anni fa, io ce l'ho 21 anni con l'acquario. E Natalino l'ha pagato 130 euro, però il vetro è diverso, bisogna dirlo, il mio è cristallo grosso, il suo è un vetro un po' più fino anche. Ma è vetro burro mio, dai, e poi è mano, che è bello anche il mio. Fatto in modo naturale. Costano neanche più come prima queste cose. No, costa. Se lo compri buono costa. Se tu vai a comprarlo di quelli buoni dove vendono animali, cazzo, puoi stare un bel vino. Sì, ma avrà costato 1.000.000 come te prima, no? Massimo spenderai 200 euro, 300 euro, buono. Vai da Davide a vedere quello come il mio, quanto costa. Sulle 900 costa, una cosa del genere. Della stessa grandezza, della stessa grossezza del cristallo che ho io. E col mobiletto, e anche me era col mobiletto quando l'ho pagato così. Aveva mobiletto, ma ci sono mobiletti che non valgono nulla. Sì, rompe il dinastro, dai. Sì, se lo prende da città mercato come ho fatto io, col mobile e tutto, da Polisero, il motore io credo che ho cambiato, quello di città mercato era un giocattolo, un motorino. Io gli ho cambiato il motore, gli ho cambiato il mio. Allora l'hai truccato. Invece Mario ce n'è uno di acquario come sopravvivere. Hai visto quanto è grosso il metro mio? Buonasera Mario, io già l'ho visto. Ma è un peccato, lì ci puoi mettere anche i pesci russi, anche se ne inventano carpe non fanno nulla. No, quando è il momento, siccome tante bollette di luce, cazzo mi stanno massacrando. Insomma, di cosa sul tempo diceva quello. Ma la chi, né quello, né l'altro, ma sempre sulli. Sì, adesso già ne hai, adesso che baracchino ne hai abbastanza. Per Paolo, avanti. Sì, stavo detto che a Natalino, se su acquario ci sta un po'. Natali cosa c'avevo io dentro l'acquario? Non lo sicuro. Eia. Ci sta tutto da me, non c'è problema. Io per faccia con la mulena lì. Passa lì, no? E la gente se non mangiava la mulena. No, basta che tu gli dai da mangiare le cose sue, non se li mangia. Stava dentro la brocca con la bocca sempre aperta. Quando li buttavi, gli dovevi buttare i gamberi secchi, roba così, se li mangiava era tranquilla. Una volta che sono stati non li tocca gli altri pesci. Allora tu ci avevi l'acquario di pesci salati? No. Tropicale, questa qui era mulena tropicale di acqua dolce, se tu la vedevi era come uguale identica a quella di acqua salata. Non lo sapevo che c'erano le mulene di acqua dolce. Allora, di acqua dolce ci sono i gamberi, ci sono i grani, ci sono le mulene, ci sono le cozze. E tutte queste cose che ti ho elencato le ho tutte avute io. Ciao, ragà. Mario! Non lo scala, brutto. Sì, no, non per... 5,40, dai, e quindi no, manco se si vuole, tanto non ce la fa. Stai andando alla grande qua. Mario. Dimmi perché? Beh, io come sto scelto. Alla grande. È positivo, vai. Positivo accetto. C'è anche il capri 2, se lasciate un attimo di bianco potrebbe entrarci. D'accordo, lo facciamo entrare subito. Avanti il capri 2 con la buonasera. Perché sopravvolato Mario Marzo, ciao. Siamo in capri 2. C'è Falchetto, Marzo. Ho detto che lui se vuole vuole fare un lavoro tranquillo senza fare neanche troppa fatica, si compra un palo da 6 metri da Don Pulice, si compra quelli STO, però sono dei tasselli per il 40, tipo quello del tutto in ferro, e figlia fa il buco nel muro, gli mette 2 o 3 di quelli lì, gli frigge bene, poi gli avvita l'STO e gli si affrigge anche con quello, poi si infila il palo, 3 buloncini e lui ha finito, cappa. Fuori, cioè quella specie di cravatta, capito? scusi, questi turni mi hanno anche chiamato stasera. Mi si arrappa e ho potuto mollare tutto e niente. Già, cioè, l'antena non l'ho mai acquistata, io l'ho fatto anche perché l'antena era, c'era il pericolo di non trovarne più. E quello sì. Ok. Quale male grande già? Ho detto, se non le trovo me la compro da Continente. Invece siamo andati con Natalino lì, ci siamo messi a trattare il prezzo già. Tipo Marocchini, ma con quello tratti poco. Infatti già l'hai visto lo sconto che ti ha fatto, 2 euro. L'avevo detto, vieni e ti comprati le caramelle. Ok, no, così lo faccio stare male, capito? Vedo, già non sono nulla. Comunque sta ritirata quell'antenna, quella che ho comprato, sono 38 euro di questi gaffi, che antenna a 200 euro ci stiamo avvicinando già. Non piangere miseria, gai, tutti lo fanno, capito? Però tu devi ascoltare quello che ti dico, se tu ricupaggi il cavi d'acciaio che attirano i fulmini, poi non ce la prenderai con noi, noi te l'abbiamo anche più dall'innaio, o come quelli che ci abbiamo io a Natalino, oppure tutti li compri arancioni, quindi perché sono quelli che vanno bene. Ma no, io preferisco gli altri perché per fare i rodi viene meglio, ti dico la verità, gli altri, quelli che ci abbiamo noi, sono migliori, tipo filo da stendere. Vanno benissimo, io ce l'ho 7 anni, non hanno ceduto di nulla. E anche di quello già lo so, già. Proprio non sapevo che faceva più guai. Adesso quello lì, meno male, che è andato in ferie a casa della moglie, ha trovato un Natalì, a meno vitrico, poi sono rimanenti guai. Ti meno quando a mangiarmi un morso di morso di... Ok, ha parlato Natalì, ha meno pizzico con un pugno di rimanenti guai da senna. Ma poi non conviene, con quelli d'acciaio non si sa mai, è meglio evitare. Ma me li tengo Natalì, non sai cosa mi faccio lì? Qualche traga, me li ricopro qui, mi tengo per fare qualche traga, già servono sempre a qualche cosa. L'antenna che c'era a Sassari, tu mi sei buttato sulla nostra batturbo. Guarda, non è che io ti bullo, io ero abituato a sentirti lì che l'altra andava alla grande, ma non si può riparare l'altra antenna, ma... Trasporto mi è quasi... sa dove sta tu, quella che c'è tu è tutta una cosa diversa. Ce lo so io cosa ci vuole. Non c'è bisogno neanche di tiranti. Ma non la puoi lasciare molto la salire. Se più alta, un pochettino più alta dell'antenna della TV, un 3 metri, 3 metri e 50 di palo, penso che batte, vero, Ma poi attacca il soccorso e arrivi bene, ovvio, non ci sarà nessun problema. Ma arriva bene anche così, penso, vero? Ehi, figurati, se mette quell'antenna arriva una bomba qua a Sassari, e se mette 3-4 metri di palo, e boh, non c'è bisogno manco di tiranti, secondo che palo metti, perché manco per le scatole lo fa muovere. Penso che batti 3-4 metri, 3 metri e 50 di palo, 4 metri così. Penso che batte, va bene, poi l'antenna è grande, quindi compensa, capito? Lo so, e poi con una 50 ha un guadagno diverso da un quarto d'onda, ma penso, riprendi capri due. Per andare bene io il consiglio 5 metri di antenna almeno. Sì, a 7 metri di antenna. Ne mette una verga da 6 metri e taglia la testa al toro, ci mette i tiranti e arriva una bomba qua. Qua la sala arriva di lusso, già arriva adesso. Figura che l'antenna risuona bene tutto, ed è 5 ottavi cosa arriva. Bugiata, entra e dopo proprio fa tu fluire. Però devi contare che una parte va dentro dove c'è la subfitta, l'altra lì, è quello che c'è, se loro comprano 6 metri, finisci 2 metri pure. 2 metri? No, almeno 3 metri pure ce ne vogliono. Sì, già esce più di 3 metri anche l'altra lì. Almeno 3 metri fuori ce ne vogliono, perché se no comincia a non risuonare l'antenna, perché deve essere almeno un quarto d'onda. Un quarto d'onda è 2,75 m, quindi ce ne vogliono almeno 3 metri fuori. Così facciamo da lì, 6 metri allora. Lei allora 6 metri, che se ne escono 3 metri fuori manco bisogno di tiranti, c'hai. Amico, stavolta però non ci frega più, vero? Non si vedi che la roba cambia dal buono al migliore. Ehi, Alfredo, cara cara. Questa volta non ci frega più, stavolta in basso a fare la molla, perché bisogna farla perfetta. Ehi, infatti. Quando la sta piantando, basta che gli metto uno spezzo. Gracias. Sai perché l'ha messa il signor Rosso? Perché un'altra persona l'ha messa il signor Rosso e andava bene. Era perfetta, 1-1 è stazionare, proprio, manco si muoveva il canale. Invece quella sua, la Casotrano gli ha fatto così. Ma comunque. Antonio, mi hai tolto le parole dalla bocca, stavo per dirglielo io. Sì, ma è così, ma non c'è problema per quello, ci metto molto a... Uno sale sopra con l'LPD, quando vede che non ci sono stazionari, ce n'è, non ce n'è. Blocchi così e ce la risaliamo su. Senza stare né con baracchino, né con questo, né con quello. E noi lo attacchiamo qua, poi con l'LPD facciamo tutto. Bisogna mollare i tiranti, gli sa tu non ne avvare così perché sono tiranti. Vabbè, poi è un attimo, dai, a farlo. Perché quando ti dà di stazionare l'antenna? Niente, metto il bullone e lei ne scende, tranquilla. Tarino. Quanto ti dai di stazionare normalmente senza accordarla, perché? Ah, un becco, un S6, un S7. Non la posso usare, no, così. Bisogna che sia un E1, se no quello là non esce neanche. Se non è accordato non esce neanche. Ma quella di Giuseppe, guarda, l'abbiamo piazzata e lui gli ha messo il coso, la molla al rosso e da 1-1 non si è mossa. Se dopo si è mossa perché toccava la molla una con l'altra e faceva massa, che si andava, aveva un bel stazionario. Poi come se ne è accorto che l'ha staccata è ritornata a 1-1, ma proprio in tutti i canali. Infatti a 7 è troppo pressata la molla, è quello che ti volevo dire io. E a me non mi è andata bene così sul segno rosso. L'ho messa lì, però non è andata bene. E infatti adesso vuole così, come sto dicendo io. Adesso io ne lascio intanto con due bulloni, mi capita di due bulloni e si ne guarda dentro la chimbaro. Non gli devi fare nulla, no? E scendi solo il tubo e lo fai entrare dentro l'altro palo. Quando ne scende, lui la carica e la tiri un po' su e controlli le stazionali. Quando vedi che è 1-1, blocchi tutto e chiudi se ritorna l'antenna, come era prima. Ci rimetti due bulloni e lei è pura e sana. Allora, se non mi ricordo male, è nata lì, perché è successo anche alla Mantova di Massimiliano, vai. Se non mi ricordo male, la devi tirare appena cascito il signor Rosso. È andata bene subito lì. Invece, questo l'ha messa, Giuseppe l'ha messa sul signor Rosso, è andata bene subito l'ultimo momento. Perché non so, secondo me non sono perfette perfette queste capo di antenne. Le fanno un po' così. È per quello che ti crea così. Sì, può dipendere anche dal cavo che non l'hai tagliata a misura giusta, tante cose possono essere, allora vuole per forza aggiustata l'antenna, no? Di stazionario. Può anche che io abbia una misura in più di cavo e mi faccia quel difetto lì per quello, e allora giustamente la devi tarare dalla molla. Una volta che è tarata non devi più toccare nulla. Può dipendere anche dal tubo, magari che l'hanno tagliato appena più lungo e ti segna stazionari anche per quello. Ci sono tante cose perché ti possa segnare stazionari. E tu già come l'hanno rifatta? Io al signor Rosso mi pare che l'avevano messa. E mi pare dice sì al signor Rosso, lo stesso. La mia è un E1 di tutti i canali, anche se va su 45, su 50, non si muove. Con un metro, a 10 centimetri avevamo goccia la tuia, cosa si riserva? Tu misurata a 10 centimetri e la vada giù goccia anche in più e uno, anche con a 10 centimetri, addirittura c'è Massimiliano a 12 centimetri, figurati. Comunque dovrebbe essere a 10, dovrebbe già risuonare. A 10 se risuona a 10, la lascia a 10, se non è 1. La tua è a 10 cm già, non è a 7, a 7 è troppo pressata la molla, infatti io aggiungo un baricrano a 7, è troppo pressata questa molla così, l'ho messa nel segno rosso, infatti mi dà stazionaria a me. E vabbè, allora vuol dire che una è diversa dall'altra, Natalia. Una è diversa dall'altra, cosa devi fare? Anche se sono modelli uguali, magari una si mette a 10, l'altra a 7, perché a lei si deve fare che la mette a 7? Lo stesso, andava bene. Dipende, dai, magari certe non sono fatte in Siria, magari che sono cose più artigianali, cosa ne so? Una va a 7, l'altra a 10, l'altra a 12, se quella di Massimiliano è a 12, la mia a 10 e tutte e due vanno bene, com'è possibile? Perché influiscono il capo, influiscono magari il tubo che è stato tagliato più alto o più corto, può essere stato tagliato, capito? L'ultimo pezzo dello stilo centrale, se le misure sono tutte giuste giuste, sì che sono giuste le antenne, ma se non sono giuste la devi aggiustare in qualche modo, no? Può essere il capo che influisce, il cambio del capo, per esempio quello lì me l'ho tolto e gli ho messo il capo nuovo, e non l'ho né misurato né niente. Io l'ho messo a dritto il capo, sempre uno e uno mi dà. E comunque molte cose sono che hanno fattore di poter... ci sono tante cose che ti fanno avere le stazioni nell'antenna. Adesso noi vediamo, saliamo con un LPD quando fa caldo, cazzo di queste cose sono asciutte, cazzo, i chili, di montare giù di due colloni e a posto farà. E dopo li abbandiamo le stazionali, che ando uguale perché attacco il capo diretto, no? A un baracchino e al rollmetro. In modo che non ci sia né accordatore né niente. E la misuriamo così, deve essere così a 1 e 1 l'antenna. Una volta che c'è il capo diretto al rollmetro e al baracchino e segna 1 e 1, stai tranquillo che l'antenna è accordata, bene. Dunque, quella di Giuseppe l'abbiamo messa al segno rosso ed è andata subito bene. Ma magari era perfetta come taglio dei tubi, quella di Giuseppe, magari ha misurato bene il cavo, capito là. Sono tante cose ed è andata subito bene a 7. Invece a Massimiliano erano in vendita di 20 a macchi e si era mattato, la mamma l'ha vinta a 12 addirittura, se no non abbasciava e non era nulla da là. La mia, la mantovatura per esempio era 10 e stazionaria non me ne dava. Sono sempre dei cosi, dei rebus da risolvere queste cose qua. E tu te lo spieghi, io sono un alimentatore. L'attacco i nomi, attacco i baracchini, funziona tutto. L'attacco il portatile non funziona. Il portatile però l'attacco un altro alimentatore mi funziona. E cosa vuoi che ti dica? C'è qualcosa che non va bene evidentemente. E come mai con gli altri alimentatori funziona con questo no? Vuoi quello che non mi dice che fate, dovrebbe essere che ha rovinato il cavo. Provo l'altro, un altro alimentatore funziona subito, provo l'altro ancora e funziona, quello lì non funziona. Riprovo e quello lì di nuovo, ho detto non so che abbia mosso il cavo e cosa, niente da fare, non funziona. E vuol dire magari ci sono le boccole che non gli mandano corrente, boh. E lei mi dica, cos'hai che non fate funzionare su portatile? Sta lì con lo stesso alimentatore che non fa funzionare il portatile, se gli attacco il midland si accende. Eia, se metto gli altri apparecchi funzionano, però c'è qualcosa che non fa funzionare quel portatile. Enigma, è un enigma, non riesco a risolvere, vabbè. Comunque, tirammo innanzi. Vabbè, comunque adesso ce l'hai accordata l'antenna. E se no mi brucierebbe il baracchino, se non l'avessi accordata mi avrebbe bruciato il baracchino, l'altro addirittura non esce manco se ti ammazzi se non va colpo, perché ti sei arrestato tu si accorge che c'è arrestato in aria e non esce. E con l'altra antenna l'hai piazzata quella multibanda? Eia, l'ho piazzata. E beh? Ehi, trasmette anche qua quella lì. Ma sono tutti staccati, l'antenna che la tagliera per temporale e ne ho staccato tutto, ne ho staccato. C'è solo questo attaccato e dopo. Ma funge, l'hai provata? No, non l'ho provata, ma già riceve. In ricezione già l'ho sentita che riceve bene. Quella c'è la ricezione fino a 1300. Come fa io, ma Lo considerare un pochettino alta, però passaggio a breve e andare. E non si può tagliare anche quella, mi. Un giorno provo a vedere come arrivi qua. E tagliamo anche quella quando ci arriviamo a fare la manto, perché c'ha due tubi di taratura quell'antenna. Facciamo tutte e due, non se ne parla più, eh. Ehi, così non devo toccare proprio nulla, capito? E così almeno esce bene anche qua. Ascolta, c'ho un dubbio però. Allora, siamo come lo fa, come lo chiara, sì. Però c'era, chi è il rometro? Cioè il rometro Galassi, giusto? No, non è l'orometro il Galassi. Come ti non ce l'ha? E dove ce l'ha il rometro? Non funziona quello lì, ho provato e non funziona. A me funziona, SVR, basta abbassare e ti dà le stazionarie. Abbassate, dovremmo levare le stazionarie qua, SVR. Aspetta, forse lo alzo. Lo alzo. Ah, sì, già funziona. Uno, va bene, vai, qui già da antenna, bel cruce. Sì, già funziona, già. Bisogna muovere il calibrate, che quando il calibrate è spento non funziona. Vabbè, normale. Io mi credo, 1-1. Anche qua sta scrivendo 1-1, ma è accordato l'antenna. Se io ne stacco l'accordato... Ma chi è che vuole entrare avanti? Prove lui, io penso che mi dà con la stessa stazionale che mi dà la rosa, perché non è perfetto. Va bene, io non ne uso di quelle dell'apparecchio. Mi metto un rometro e la zero così. Una volta che dà 1-1 con il rometro, anzi prima mi dava pure la multibanda, perché cioè sono due stili più lunghi, no? Che hanno disturbo di taratura e quello si può tarare, dice l'abbattante e mi dà pure un'issa, così arriva con questa gravità pure un'issa. Secondo me dandoli, se ce la tari bene, dandoli qualche parte arrivi bene anche con quella. Infatti, però adesso ci parla con quella, però lui non l'ha tarata, io la taro, perché se c'è stazionario è pericoloso, capito? Invece quando c'è 1-1 anche quella è stazionario sulla 27, posso usarmela come antennino, mi? Facciamo proprio così, adesso che me l'hai ricordato me la taro quell'antenna, tanto cosa ci mettiamo? La attacchiamo a un altro baracchino con un altro rometro e via. Una volta abbiamo tarato la cosa, prima di salirci la tariamo anche l'altra che è in basso. Ma puoi fare anche quella, le fai tutte e due via, prima la mano e poi quella là. Almeno, secondo me va bene lo stesso. Poi magari per compensarla gli dai qualche parte e via. Quindi dice che va bene quelle antenne lì. Vanno bene. Oltre che per usare la pelle di ricettore la puoi usare anche qua, quella lì. È utile quell'antenna, sembra così ma è utile. Può succedere qualche cosa quella là e quello lì ce la discorda e va bene. E infatti. In capo me la regolezza bruissa, avevo anche tutto a posto, ma che non vedevo piazzare un'altra la capisciuta, un altro di cazzo rinviene. Stasera stavo a cazzo montando la mantova a turbo, l'ho fatta tutta a pezzettini e l'ho data a quell'amico mio che la dovevo dare e via, se no non la potevo trasportare, quindi l'ho dovuta per montare. La prende, ma la monta, sì. Sì, che la mette. Vediamo. Sì, ormai qui c'è un grande Dio. C'è bisogno di prendersi 50 accogliatori, e pure da accogliare. Chissà chi va, ne rimanca la mezz'ai. Basta metterla. Se la sistema bene, va. Te credo. Sì, c'era anche Mario, c'era, avanti Mario. Scusa Mario. Scusa di che cosa? Io mi stavo ascoltando. Siccome eravate tutti quanti presi da queste antenne malefiche, niente, io sono seduto alla parte e qui prima o poi già mi chiamano. Mario, gatto, bisogna almeno questi sono discorsi seri, tecnici, caipittina. Una volta che siamo seri, almeno cata i radioamatori non ci dicono che siamo cianfraiuli, che ne facciamo di tutti i colori, che siamo maleducati. Ma guarda, ti dico una cosa, a me piace pure la cianfra, quindi a me non me ne frega proprio niente di ciò che dicono, guarda, ti saluto sinceramente. Anche a me mi piace la cianfra, ogni tanto a divertirci fa anche bene, non è che non fa bene, no? E poi caspitina, anche quando parliamo di discorsi tecnici sono quei discorsi da potersi ascoltare. Cappa, cappa, ci siamo dimenticati anche di cappa 2 se per quello. Io sono sceso a aprire il pacco dell'antenna a prendere le istruzioni natalini. E quindi sono fissi, allora quelli che ci sono all'entrata il camion con cestello. Può essere l'ultimo filo anche più lungo, così è Natalino. Sì, anche il carro influisce, tante cose influiscono per le stazionarie, però basta regolare la molla e via. Una volta che regoli quella molla lì, le butti giù le stazionarie e l'antenna è tarata. Infatti non si vede neanche che è molto pressata il disegno. A sette è troppo pressata, infatti adesso io già lo so io come fare, mi scendo il palo e me la taro. Quando è a 1-1 ce la risalgo su. E lì è pura e sana. Poi devo aspettare che faccia la giornata calda e tutto, per asciugare le tegole, in modo che quando sali non le rompi. Cosa bene veda? Comunque io per fare il lavoro che stavo facendo lì ci ho rimesso la firma, che pure io ci ho rimesso la firma, solo che ti sta andando così, ti sta scasseggiando, se stamattina mi sono fatto un impatto da solo, aiutato dalla ragazza che mi portava l'acqua. Ok, ho fatto l'impasto, lì sono portato alle mulature, poi sono stato chiamato per scaricare un pallet di pietrini. Quando vieni tu, come non c'è problema, ci ho dato un pallet di pietrini, arrivo in cantiere di nuovo, perché io mi sono detto prendetene uno, allora non ti sta preso a me. Cioè, sono scaricato, rientrato, cazzo, appena rientrato, c'è pure lì, mi sono andato, diciamo a me. Tu ma anche voglio ci trattare a tirarti vedi tu purtroppo la cosa di salute non da solo e boh ma ti mostro non con garaggio ma sto più muovendo io fai usi frate e poveraccio vedi che farà dopo ti dimmi ci la misani Luca prega della salute cazzo che ogni 27 arriva lo stipendio e a tutti dimmi 27 che partita di 15 se ti dico già lo so. Il giorno 15 che avrebbe lo stipendio d'urgenza. Ma con un guiso lo stipendio. Perché devo durare. Perciò. Niente, vabbè, non sto mangiando la musica. Il prossimo mese mi avranno tutti puliti per me. Signori, io vi saluto. Che me ne vado a letto, va. Io ci devo durare di fendi. Tutto il giorno facendo il capo. Ammela, ci sentiamo alle prossime, che domani lo stesso penso che devo fare roba. Ci sentiamo alle prossime, là, quelle che per me ne vado a letto. Apri, buonanotte. Dali, buonanotte. Va bene, dai, signori, mi saluto anch'io, dai, ce la risentiamo tutta domani. Buonanotte circolare a tutti, almeno non mi dimentico di nessuno. Tanto anche a te buonanotte, anche io pure io, buonanotte a tutti, a domani, ciao ciao. Ciao Natalino, pure sì, ciao a tutti, io rimango in quel rischio, se chi c'è, ripreta, se volete voi informare. Cappa, ciao Natalino, ciao Antonio, ciao Luca, buonanotte a tutti e tre, dai, avanti Capri 2. Io ti ho già salutati. Sono stato guardando quel tempiano della Manto, da qui c'è scritto assente. La regolazione della polla, infatti si vede che nel disegno non è molto pressata. Ciao Luca, ciao Natalino e ciao Bombolo, tutte le prossime, buon 144 e buon tutto, alle prossime, bye bye, riprendi il mio ruolo. E Iare, scusa Mario, non me l'ho dimenticato che c'è anche tu. In effetti è così, a 7, solo che ripete l'antenna, antenna. Per dire, la mia l'abbiamo attaccata a 10, stava dicendo un Natalino che si ricorda così, ma io non me lo ricordo. Comunque, a 10 dice che l'abbiamo misurata, invece quella di Massimiliano a 12, c'è gente che ce l'ha attaccata a 7 e non ne dava lo stesso. Insomma, dipende, te l'ha spiegato Natalino, no? Come è tagliata l'antenna, come scende il cavo, quanti metri di metri, se è tarato e tutto. Perché l'onda c'ha una misura. se tu metti il cavo senza misurare, oppure tu dici, ecco, per arrivare a casa mia ce ne vogliono 10 metri, e ne metti 10 metri, non arrivi a fare l'onda, perché un'onda mi sembra che sia 11 metri e qualcosa, là, adesso non mi ricordo se è 11 e 11, oppure se è 11 e 14, adesso non me lo ricordo. Comunque il cavo va misurato in base all'onda. Se poi nella calata che hai, per dire ce ne vogliono 20 metri, mi fai a mettere 20 metri giusti, ne metti 22 o 23 che siano, quelli che sono, perché il cavo va misurato in base alla lunghezza d'onda. E così che va misurato giusto, in modo che non ci faccia pure adesso quello che c'hai in più, se ce ne hai 3 metri in più, anziché arrotolarlo perché fa la resistenza, lo tieni buttato sul tetto come ce l'ho io. Io ne ho fatto fare addirittura il giro della casetta dell'ascensore per non averlo buttato in casa, capito? Però è tagliato a misura il mio cavo d'antenna. Io ti dico la verità, io l'avevo fatta a misura, poi in casa ne avanzava troppo e l'ho tagliato. E stazionare risultati 1-1 in tutti i canali. E magari per accordare l'antenna l'hai messa a 10, se no magari andava a 7 come c'era scritto nel Puglio. Quello lì dipende sempre da come c'è il cavo, capito? Non è che uno dice ma è così perché è colà. No, è così perché in base anche alla lunghezza del cavo che regoli il mollone delle stazionarie. E se te lo misuri da casa giustamente c'hai 1-1. Però bisogna vedere se il cavo è l'onda giusta, capito? Tutto lì è, ma ci sono tante cose per avere le stazionarie, capito? Tutto qua. Poi quando uno invece si piazza l'antenna, si pisa uno spezzone e se lo misura già che l'antenna è a posto così, poi il cavo se ne mette quanto vuole, però poi bisogna vedere il risultato com'è giù. Infatti io la vedo direttamente attaccando l'antenna da giù con due portanti, uno che lo tiene sopra e l'altro sotto. Guardiamo le stazionali, se va bene diciamo, può volare, se non andare bene, prova a allargare, prova a stringere, eccetera, eccetera. Tutto con gli LPD l'abbiamo fatto. È scappa, però il cavo non era tagliato a misura, perché ce ne avevi troppo e l'hai tagliato, capito? Dipende anche da quello lì. Cioè ogni cosa, se tu la piazzi, loro ti dicono per dire che l'antenna è colorata per quello lì, però molte volte c'hai il cavo perché ti dà fastidio avere l'onda intera, allora lo pigli e lo tagli. Io invece per non tagliarlo ho pigliato e l'ho messo sul tetto, l'ho buttato sul tetto, tanto è vero che quando mi era caduta l'antenna c'era quella dell'ultimo piano che mi stava dicendo cosa, perché praticamente il coso del piede, il cavo, il vento l'aveva spostato davanti al suo carattere e gli dava fastidio. Ha detto cosa di spostarglielo, perché dava tanto l'altro, mi andava bene, tutto lì. Però io ce ne ho un bel buttato su, non voglio esagerare, ma ce ne saranno 5 o 6 metri buttati sul tetto. Cappa, io se lo sempre. Se decidi pure di allungare l'antenna, che cosa dicevo sempre? Vabbè che ti piace la abbastanza grande, il palo. Avanti, Caprino. Cosa c'è? Il rumore? No, come fa questo rumore? Boh, è strano, non è là Italia dovrebbe essere questa cosa, perché in certi punti sa sarebbe via Oriani, poi dietro via Oriani di via Marra, c'è sempre questo rumore. Qua è tutto libero, non sento nulla io. In gatta, dove sei andato? Dico no. Appagato. Ah, in acciaio. Vengo io a comprare le saldature. E io sono un saldatore, ho detto se ci vedi, ho il diploma. No, fallo, io te l'ho detto di non saldarlo, per me saldarlo è una fesseria, perché la saldatura si ossida, diventa ruggide e ti contagia tutto, invece ci mettevi un tubo più fino dentro l'altro e vedi a posto. Vabbè, mettiti in acciaio, non so dove li vengo. Col dado autobloccante, ricordati. Mi sembra che c'è un po' di paura di piazzarla questa antenna. No, è la mia impressione, ti vedo un po' impaurito. No, la casa Silvio Rosso lo dà per mettere, per darti il punto dove si deve agganciare la fascia. Poi se ci sono altre cose che non vanno, è l'antenna che si regola, magari il cavo più lungo o altre cose che magari ti stanno l'antenna a quel livello lì, la regolano ad un altro livello, è come se tu c'hai uno spessore corto a 90 cm con la 120, con la 120 per dire, ti può dare più stazionari, dove ti dà 90, io ho provato e me l'ha fatta. La fascetta scende e sale, ma non dovrebbe capitare, dovrebbero essere fatti insieme alla stessa misura, se sono tarate per quella misura lì è normale che devono risultare così, non è che quasi perché c'è uno sbaglio di fabbrica, che ne so io. Guarda, c'era stato un periodo che era Fusaro, lì, proprio quando era Fusaro, non Fusaro, cosa sto dicendo, da Grassi, quando proprio da Grassi, non quando adesso che sono le società, ma prima, avevano comprato a Salvini, Roberto Quadrato, altra gente, tutte con il filo della molla, della carica della molla, tutti staccati. E con il coso dove attacca il PL, c'è praticamente dove c'è la piastrina col piede femmina, andavi a girare e girava tutto su se stesso, non funzionava, era staccato. Copiato capito. Io. Sei Mario. Ci stavo mangiando, stavo mettendo un bicchiere di caffè. Sì. Capri 2, te l'ho detto come si fa, poi ti c'è il tetto basso, si viene con due LPD, uno sta giù e uno su, uno controlla le stazionali da giù o da su dove ce l'ha l'apparato, non lo so, e l'altro regola, prima si fa sul 20, poi si fa sull'1, poi sul 40, e si regolano le stazionali in tutte queste frequenze qua. E poi si girano gli altri canali a vedere se vanno bene, ma quando è uno e uno in queste tre frequenze tutti gli altri vanno bene. E è un, diciamo, una sorta di riportati dei piccoli che vanno in altra frequenza. In uso, vai, vai, vai. Esatto. Ma non ti cade. Ma se tu non la metti al centro, non te ne tiranti, quelli laterali dove li metti? Già capito che non ti ho sentito che c'è la mia moglie sgridando a Marco perché lo siamo messo in pigiama. Quindi al centro il tetto. No, quello che c'è giù sempre al inverso, faceva tre toni, bisogna avere quella disponibilità nostra, è quello il problema, perché magari sei disponibile tu, siamo disponibili, non abbiamo mai questa antenna, devi diciamo trovare il giorno, dire questo giorno la piazziamo, che deve essere sempre di domenica per me, parlo per me, perché io gli altri giorni lavoro, se non altro nella domenica e lunedì sera. Ma tu non lavori domani? Paga. Io non sono di servizio di distinzione, queste che ci sono avanti in magazzino, non è proprio, non le costruiscono più. Ma una volta che piazza stava tranquillo ci nemmeno. Vabbè, vedi tu, quando ho intenzione, se sono disponibile non c'è problema. Basta fare come c'è tu, se tu hai la paranoia che ti cada, da ogni parte dove metti il tirante ne metti due passate, invece che metterne uno solo, un tirante solo, lo metti doppio, dai, so che attira anche i fulmini. Ma meno ferro c'è, nell'antenna è meglio, capito? No, quello no, perché c'è l'antenna su. No, bene, io te l'ho detto dall'inizio, di prenderti quel cazzo, tu non mi dai mai retta a me, cos'è mi possibile? Di prenderti quel filo da stendere, quello che abbiamo qui in Antanino, quello va benissimo, io me l'ho messo doppio perché sono pignolo, se non regge bene anche normale, ma io siccome sono pignolo e ce l'ho molto in alto, anche se cade la mia, altro che la tua fa danno. Dovresti rifare bene tutte le parti senza manco lineare. Piccolino? Vabbè, se tu sei in grado di farlo, meglio così. Ma comunque, una volta che l'antenna, poi potrai decidere tutto quello che devi fare. Adesso devi decidere di l'antenna, una bella stazione, perché quegli apparati lì già, ti dico la verità, è meglio mettervi in vetrina e metterne uno buono che ti faccia tutto. Se no la formica. No, ho detto se no fai la formica se non trovi lavoro, nel senso che metti da parte. Nemmeno lo stesso stipendio di un lavoratore che ha dipendenze, non ti prendi certo 1.300 euro, 1.500 euro. E là già sono qua. Vabbè, adesso dici. Cosa ne va fai su una girofa? Così. Non è meglio con l'ecco. Però no. Chi che c'è? Oh, è meglio così. Ah, meglio con l'ecco. Ti amplifica di più la radio. Grava. E l'ecco che c'è rimasto. Io tu e capi due. Io tu e le rossi. Ciao, va bene. Porca miseria, c'è un solo di braccio, già, purtroppo la mazzetta è scappata, so. Porca miseria, dimmi. Ma se facevo traccia? Beh, l'ho buttato un paio di tramiti, però ce n'era uno in particolare dove c'erano i diretti, perché a tempo da finire, sembrava una rossa, invece vedo, calcio struzzo. Per il mazzetta non è vero. Non lo c'è una mazzetta particolare, c'è un tubo saldato, l'ormica vessile, quanto pesa. Già pesa la mazzetta, poi con un tubo in ferro, oi. C'è la mazzetta 500 grammi, e più questo tubo, no? Però mi ha buttato con il braccio, e poi c'è un colore, speriamo che mi passi il colore, se non lo faccio. Non basta per operare con il tubo. Va bene adesso. Capito? È un macello, non mettere un finino di ecco, appena. Perché non ce l'hai? No. E adesso? No. Poi un passaggio lungo. 1, 2, 3, 4, 5. K, adesso lo giro così, va bene, ti amplifica la voce, non è rompi palle. Gappa di orologio. Uiaia. Non so come fare. È un casino. Ma senza contare un piccolo che ho respirato, no? Senza quello. È venuto, mi ha detto, prende la mola, sei qua, dice, fa per la desega. Un piccolo, lì c'è un lascia perdere, anche una volta che è venuto a farmi il bagno questo muratore, che non sappiamo con cosa voleva di fare il muratore, si è messo a segarmi le mattone e con la mola dentro casa, mi ha fatto un casino nero. Io posso dire, uia, no, non so come voglio fare, perché le casse si mette in appartamento, è un casino. No, sono da fare fuori con le cose, quando tagli le mattone devi farlo fuori. Io. Casino. Tu lo stai buttando questo tornamento perché giustamente si vuole collegare una camera all'altra, si è allargato, è specializzato, ha avuto più largo la cosa, per carità tanto particolare. Però chiamano il giorno muratore. Io ce l'ho da quando l'hanno costruito per la farina. Hai visto le cose? Quello l'hanno costruito nuovo, la struttura nuova, non è... Quello lì è dove c'è il Club 24, te lo dico il Club 24? Chi? Club 24, la discoteca. Ehi, è vero, è vero. Noi abbiamo comprato quel locale lì, quello del Club 24, però poi l'abbiamo buttato giù, l'abbiamo tenuto per un po' di anni, poi l'abbiamo buttato giù e l'abbiamo fatto tutta nuova. C'è una pagare la mamma. È un bello paga. Che ti stavo dicendo? E anche la vecchia ho fatto il panino domani. Ehi, perciò non avevo più guarda per un bel genere. Ah, così tardi? Ehi, ma quasi che ci becchiamo, io di solito arrivo lì a mezzogiorno e un quarto, mezzogiorno e 20. La pagata, forse pure la guardia si apriva. Perché con il figlio? Oh, adesso tu vai a fare i parini. Ah, me ne manca un bel cura, con la l'intona, con la battorra. Allora, avete già tutte le massette, le cose, io è così, no? Fare massette, io è così, no? Ma, piano piano, sperando che tu un pochettino, almeno quando sto là dentro le cantine, intanto 12, dentro le cantine, capito? Sto facendo giusto questi giorni per non stare bene, e poi dentro le cantine... No, infatti... Tanto va bene sempre, no? Beh, sì, io sì, giusto per non stare bene, ho detto. Beh, la buccia, io mi pare che sono sempre di serrati. Vabbè, buonanotte, Falchi. Capri 2, ci sei o non ci sei? Adesso mi fate sentire, poi magari non entra. Va bene, ciao, già, buonanotte, se capita, dai, ci vedremo lì, dai. Non c'è problema. Ciao, buonanotte e tutte le prossime. Ciao. ciao, ci sentiamo, va. Se mi porto la cassa e te la tocco. Ah, non ti preoccupare, già ci vediamo, non ti preoccupare. Ah, vabbè, dai. Ok, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Attino, è a Futtivinde. A domani Manzana. Non lavoro il lunedì sera. Proprio dove ci sono le vittime. Blasca. No, c'è il coso in ottone, c'è la fine. Radiale è vicina, però c'è lo scoso l'attacco che va all'interno dove ha vitti e in ottone. Esila. Gaba gaba. Andava bene. Se riesci a mettere la scheda, buon per te. Ma va là. E ma è bassino con modulazione, non mi piaceva. Questo che sto usando adesso qual è il mitra? A quello lì ti dico un microfono da mettere, gli esce una bomba. Il DM1000. No, no, non lo mette. No, ci vuole un microfono a palmoni, ti dico io, il DM1000, perché è proprio per sposarsi col Mitra, il DM1000. Sì, che l'ho visto, come M del Galaxy. La gamba. Il Galaxy se ne trovano pochi in giro, e chi te li prende meno di 200 non li dà. A pagare, vabbè. Non bella quella del cimitore che trasmetti il mio. Perché io ce l'avevo sin da pochi giorni fa, poi me l'ho venduto. C'avevo lì come RG5, vabbè, come si chiama così? RG5. Ma il ricevitore no. Ciao.